male. Sto stavendo, a te dove? No, no, io ero al bunker, sto rientrando, fa gli punti, sto rientrando a Itteri. Ah, ho capito male, allora va bene, dai, consente. IS-0 di FB, IS-0 di XO. Ok, ok, ho fatto le prove in 10-20, già aumenta un pochino quell'affare, dai. Ehi, da 150 watt a 250, 300, non è che cambia niente, poca cosa, dai. Però già va bene, ti aiuta un po'. Roger, Roger. Non è che c'è la KIP, una di quelle valvole, no? Non lo so, potrete chiedere a Marco, Marco ha sempre qualcosa nascosta. Potrebbe averla o potrebbe sapere chi ce l'ha. Guarda, sono sicuro che quella valvola lì, sono sicurissimo al 100%. È che è difficile trovarlo, però forse volta ti può aiutare, non so, dovrebbe averla di tipo doppio, perché di quegli amplificatori ne aveva tre addirittura. Che valvola, ciao Cla, che valvola tu? Cavolo. Oh, bianco niente, Trovi, boh, io non lo conosco manco. Bianco nulla, il riso è bianco. Altro che valvola. Ma 572. No, non è una roba del genere. Anto. Oh. Ciao, KB. Prova un po', perché io non ce l'ho il numero di telefono di Tango Tango Whisky di Gianni, ma se c'era Walter magari chiedi, perché so che lui usava l'FL 7100 con la linea Drake e poi ne aveva uno di scorta, infatti a me mi ha detto se qualche volta mi serviva qualche pezzo non c'erano problemi, poi io ti ripeto l'ho venduto, ne aveva uno di scorta e c'erano le valvole nuove, insomma pezzi di ricambio l'aveva preso anche lui. Io non so come ritracciarlo, se magari a volte vuole darti una mano. Non c'è Tango Tango Whisky, abita in continente, c'è da un po' di tempo la mano. C'è più qua. Ecco la casa che fine ha fatto. L'ha venduta. Porca miseria. Bella casa, bella storia lì. Bella veramente, nella pace, nel silenzio e anche nella posizione, perché era anche una bella posizione lì. Ok. Aveva anche lì passato il raffreddore, no? Io ancora c'ho la febbre, sto meglio però, rispetto a ieri sto molto meglio, però ancora. C'ho la febbre quasi a 38, però sto riprendendo. Ha venduta, cosa sarà, tre anni fa, eravamo anche sentiti, è venuto qua, dice, conosciuto la signora, il continente, si è trasferito là, ha preso casa là e tutto, c'è tanto finanziamento da fare, più ora avanti. E la casa era solamente un brutto ricordo, e allora si è preferito andarsene. Valvola di che cos'è? Del 2100? Sì, quella lì è del 2100 mi pare. Vero Anto? Sì, 2777. Non ne ho la minima idea. Sì. E Bio, e beh, lì hai risolto, capo. Ma anche quella del Catanzaro l'ha venduto, l'ha lasciata la figlia. Non mi ricordo, lo sai, non mi ricordo che cosa ne ha fatto di quella, ma forse l'aveva tenuta, perché ricordo che anche l'anno successivo, poi era venuto in estate, ci eravamo anche sentiti, ci dovevamo anche trovare una sera per andare a cena insieme. E mi pare che quella l'abbia tenuta perché comunque magari veniva, sai, con gli amici della barca, Antonio, credo che l'abbia tenuta, però non mi ricordo bene, insomma. Sì, secondo me l'ha tenuta, perché Antonio, poi ce l'ha passato ci siamo visti anche da poco. Vabbè, cioè l'ho visto da poco, non ci siamo visti. Quindi sicuramente l'avrà tenuta anche lui. Va bene, dai. Anto, io so esattamente qual è quella valva. Se riesco a fare qualcosa la faccio volentieri. Adesso non mi ricordo chi è che aveva il 2007. 2007, non me lo ricordo chi ce l'ha. Però ce n'è in circolazione, ce n'è. Vabbè, provo a chiedere. Poi ti dico qualcosa. Dai, signori, io vado a cena e ci sentiamo dopo. Ci aggiorniamo dopo. Ho dato un po' più di gas in 10 metri, Marco. Adesso siamo a 300-350 watt. Ho visto che già sale. 10, già sale. Va bene. Ci sentiamo dopo, gli facciamo qualche prova, vediamo un pochino, dai. Ti ho sentito in 80 poco fa dando sagamante forte a quello che stava provando quel microfono, stava uscendo e faceva pietà, hai fatto bene a dirglielo, ma non potevo entrare. Dai, ci sentiamo dopo, io sentirò di FB Querix. Chi ha ricato? E anch'io vado a mangiare, dai. Ci sentiamo dopo cena, comunque ci faccio una capatina. Adesso mi sento un po' meglio, ci faccio un'oretta, facciamo qualche prova. Bene, con un po' di potenza sicuramente tentiamo poi due collegamenti lì con Massimiliano, vediamo come suona la matracca. Ciao Gisso, a dopo. Ciao Bio, se ci ascolto e se era Whisky Whisky, ISD KB in QRT come ISD DTB. Pacappa, ciao Anto, a dopo. Ciao Cracchia, io la valvola adesso due ho mandato un'email a un rivenditore, se mi dà l'ok le ordino, là, le prendo nuove in cappa. Infatti, è l'unica cosa buona da fare, perché poi sai, metti quello, metti quell'altro, alla fin fine ti si incasina tutto, meglio mettere roba nuova e sapere che è tutto ok. Ok, va bene, dai, ti auguro buona cena anche a te, Anto. Ci sentiamo dopo che vado un po' a mettere qualcosa sui tuoi denti. E poi sono qua in radio a Lande Caraibi. Ciao a tutti. IS0 DFB Querix, bye. Ciao, a dopo. Mi faccio sentire più tardi anch'io, adesso rientro. Sono già sulla zappa Ittiri. Ciao Marco, buona cena. E Bio, dimmi cosa hai fatto lì, cappa. Da whisky, dai, adesso state mangiando, lo so, però mi potete dire almeno se avete lavorato lì. La bocca piena abbiamo, stiamo lavorando sulla faina. Ma non si è lavorato lì ancora? Oh, prima la pancia piena. E dai, poi ci sentiamo. Sto sentendo in RE.